coda bella trova un castello. Il gatto coda bella era felicissimo di trovarsi vicino al fiume. Aveva camminato per 3 giorni ed era stanchissimo. Si lasciò cadere sulla riva del fiume mettendo a bagno le zampine indolenzite. Vicino a lui c'era un uomo dall'aspetto trasandato, con una vecchia giacca e un paio di stivalacci, che stava pescando. «Sei nuovo di queste parti, vero?» chiese. «Forse cerchi un posto dove sistemarti?» Coda bella annuì. «So che laggiù, al castello, hanno bisogno di un gatto. L'ultimo se n'è andato perché c'erano troppi topi per i suoi gusti. Vieni con me, ti farò strada.» Coda bella era sorpreso. L'uomo aveva un aspetto così misero. «Lei lavora lì?» Il pescatore ridacchiò. «Sì, proprio così.» Il castello era circondato da un fossato. «Come faremo a passarlo?» chiese Coda bella. «Ora vedrai.» L'uomo suonò un grosso campanello di rame che pendeva da un palo, si sentì un cigolio e uno stridio e il ponte levatoio cominciò ad abbassarsi lentamente. «È un modo per tenere lontani i visitatori sgraditi», spiegò l'uomo tirando dritto. «Coda bella dovete correre per non rimanere indietro.» Il pescatore attraversò il cortile ed entrò dalla porta principale con gli stivali che gocciolavano. «Che vecchio posto, pieno di correnti d'aria», mormorò Coda bella. Guardava a bocca aperta il grande atrio con le seggiole intagliate e i grandi cassettoni antichi. Ai piedi di una scalinata c'era un'armatura. Nell'angolo opposto si apriva una porta davanti alla quale un vecchio cameriere si stava inchinando. «Il pranzo sarà pronto fra mezz'ora, vostra grazia.» Coda bella si voltò verso il pescatore ancora più stupefatto. Non aveva davvero l'aria di un duca. «Benissimo, Poldo, porta questi pesci in cucina, li mangeremo domani.» «Allora, ragazzo», sorrise al gatto Coda bella. «Sì, il benvenuto. E rimani pure se sarai capace di cacciare i topi del mio castello.» Coda bella esitava. «Ci proverò.» Cacciare. Aveva i piedi piatti e non poteva correre velocemente e sicuramente ci sarebbe stato parecchio da correre in quel vecchio castello. Il duca si chinò per carezzarlo. «Fai quello che puoi, ma ti avverto, sono una banda molto astuta.» Poldo portò il gattino in cucina per presentarlo alla cuoca, una simpatica grassona che dava l'impressione di assaggiare tutto quello che cucinava. «Puoi dormire in quell'angolo, caro.» E gli indicò un cestino con dentro una copertina. «Apparteneva al nostro gatto, ma se n'è andato piuttosto all'improvviso.» Lei e Poldo si scambiarono degli sguardi eloquenti e Coda bella fu sicuro di aver udito la risatina di un topo. Nel mezzo della notte il gattino venne risvegliato da uno strano rumore. Aprì un occhio e... topi da tutte le parti, da sotto la porta della dispensa, dal grosso forno nero, perfino da sotto la sveglia della cucina. Si riunirono in mezzo alla cucina tirandosi i baffi, a coda ritta, sussurrando e squittendo di eccitazione. Poi apparve un altro topo da sotto la porta di servizio e tutti si voltarono per salutarlo. Quando Coda bella vide le grosse orecchie dell'ultimo arrivato, borbottò. Si trattava proprio di Burlone, l'unico topo che non era mai riuscito a superare in astuzia. Avvicinandosi con tracotanza al cestino del gatto, Burlone ridacchiò con impertinenza. «Lo sapevo che ti avrei rivisto prima o poi! Io sono qui da ieri!» Coda bella fece finta di non averlo sentito, ma stranamente fu contento di vedere il muso familiare di Burlone. Il duca però gli aveva offerto una casa ed era suo dovere cercare di liberarlo da tutti i topi, Burlone incluso. Girò la schiena facendo finta di dormire e intanto pensò a un piano. Quando tutto fu di nuovo tranquillo, strisciò sul pavimento della cucina, saltò su uno sgabello e aprì di botto la porta della dispensa con la zampa. La faccia gli si illuminò. Balzò su una fetta di formaggio dall'odore forte e la nascose nel suo cestino. Ora doveva solo aspettare. Al mattino seguente arrivò il postino e appoggiò la bicicletta alla porta di servizio. «Entra, entra a bere una tazza di tè, Gianni!» lo invitò la cuoca. Codabella aspettava proprio questo momento. Sgattaiolò fuori con il pezzo di formaggio e lo lasciò cadere nella borsa per le lettere vuote che stava dietro il sellino di Gianni. Aveva lasciato nella cucina una scia di molliche di formaggio. I topi fiutarono l'odorino delizioso e tutti seguirono il postino. Dopo che Gianni se ne fu andato, il vecchio Poldo alzò il ponte levatoio e Codabella sorrise fra sé. Ce l'ho fatta! Ma quando nel pomeriggio arrivò il furgoncino della lavanderia, a Codabella venne quasi un colpo. Appena aprì il cesto, la governante strillò e saltò su una seggiola. 15 topi di tutte le misure e forme saltarono fuori dal cesto. Codabella li guardò sgomento. Hai voluto fare il formo, eh? Ghignò burlone. Ma io lo sapevo che non ce l'avrebbero fatta a raggiungere il postino. E sempre sogghignando, burlone scappò lontano dal gatto. A mezzanotte, Codabella venne risvegliato dalla pendola dell'atrio che rintoccava più forte del solito. Il gattino si tirò la coperta sul capo per non sentire il rumore. Ma al 12° rintocco la pendola non si fermò e continuò a suonare. 13, 14, 15. Quando arrivò a 34, il duca scese le scale infuriato in camicia da notte, afferrò un grosso bastone da passeggio e cominciò a percuotere la pendola. La porticina dell'orologio si spalancò e i rintocchi cessarono, ma ora le lancette si muovevano a velocità insolita. Il vecchio Poldo apparve con una candela in una mano e un bastone nell'altra. «Manda a riparare questa pendola, idiota, o non avremo più riposo!» brontolò il duca risalendo le scale per tornare a letto. Questo fatto suggerì una nuova idea a Codabella. Se fosse riuscito ad attirare i topi dentro la pendola prima che venisse l'orologiaio a prenderla... Scivolò in dispensa. La cuoca si era data da fare. Gli si illuminò il volto alla vista dei pasticcini, delle torte, delle file di salsicce. Seminò una scia di briciole fino alla pendola. Poi imbottì l'interno con il cibo. Non dovette aspettare molto. Ben presto apparvero i topi che, seguendo il proprio naso, divorarono le molliche e saltarono dentro la pendola. Codabella chiuse la porta con un colpo. Quando arrivarono i due uomini a prendere l'orologio, udirono degli strani rumori provenienti dall'interno. «Questa qui è proprio ridotta male», disse uno di loro. L'altro scosse la testa. «Nemmeno il vecchio Erasmo riuscirà ad aggiustare questo orologio». Quando la cuoca si accorse di tutto il cibo mancante, si voltò verso Codabella. «Ladro di un gatto! Lo racconterò al duca!» gridò, inseguendolo con il mattarello. Il gattino era terrorizzato, scappava a destra e a manca e quando arrivò nell'atrio fece un balzo e si cacciò dentro l'armatura. La visiera si richiuse su di lui. Il rumore e i miagolii che uscivano dall'armatura allarmarono la cuoca e quando il duca scese corse verso di lui agitando il mattarello. «La casa è stregata, signor duca! C'è un fantasma nell'armatura!» Il duca alzò la visiera, dette un'occhiata all'interno e tirò fuori un gattino contuso e impolverato. Codabella raccontò tutto l'accaduto al duca. Sua grazia era molto divertito. «E così ho mandato al vecchio Erasmo un'intera famiglia di topi oltre a una pendola rotta». «Bravo gatto, lo sapevo che eri in gamba, ma non avrei mai immaginato che mi avresti liberato da quella piaga di topi così in fretta. Dagli subito un po' di latte, cuoca!» Codabella finì di leccare il suo latte, si forbì i baffi e zampettò fuori per crogiolarsi al sole. E quella notte dormì con un sorriso pacifico sul muso, sicuro di essere solo in cucina. Ma quando il mattino seguente uscì per salutare il postino, un muso familiare gli ammiccò dalla cassetta per le lettere. «Ciao!» disse burlone saltando fuori. «Sono tornato! Non ce la facevo più a stare col vecchio Erasmo! Tutti quegli orologi che ti tettano e rintoccano mi facevano stare sveglio! E poi?» sghignazzò con impertinenza tenendosi alla larga da Codabella.